già steso a terra. E tu non dirle niente, e tu non dirle niente, sette il sangue intorno a me. Non capirà che solo fragola. Spesso la prende nel vuoto che scorre fra una nota e l'altra. Il giradischi suona spesso.